Salve a tutti, ben ritrovati o ben trovati. Non si sa se questo episodio è uscito prima o dopo quello su Zack Snyder, ma abbiamo qui con noi un ospite speciale, Luca Oddis. Cioè, nel caso hai spoilerato l'episodio futuro. Spoilerato, ma spoiler piace, no? Avete sentito il nostro signore supremo Salla? Beh, che dire, cominciamo. Questo episodio è nato da una conversazione, o meglio, da una frase soltanto che mi è stata, come dire, lanciata in un corridoio come un salame dal qui presente Luca Oddis, che un giorno si è svegliato e ha avuto questo lampo di fulmine e ha detto: no, ma nei film, se c'è una scena di sesso, il film fa schifo. Riferendosi a tutte le scene di sesso di Game of Thrones e di tantissime altre telefilm e film, insomma, un panorama di esempi vastissimo, insomma, dietro questa affermazione. E ho deciso, ah, cavolo, sarebbe interessante giustificare o andare contro o confutare questa sua tesi, questa sua ipotesi, e quindi eccolo qui a difendersi davanti a una giuria di espertissimi, che ricordiamo essere. E niente, quindi... Bene. Anche qui voglio citare la mia risposta, che ogni scena, che tra l'altro è anche il mio argomento, cioè anche la mia idea su questa cosa, su questo tipo di scena. Ogni scena di sesso deve essere fatta come una buona scena d'azione, ovvero deve avere Keanu Reeves, Bruce Willis e altre 100 persone che devono essere tutte morte alla fine della scena. E questo in realtà per dire che... No, vabbè, seriamente ogni scena di sesso secondo me deve avere un senso nella storia, deve far andare avanti la storia e deve avere un inizio, un mezzo, una fine. Non solamente come atto sessuale, cioè proprio deve avere qualcosa in più sui personaggi che impariamo o sulla storia, deve avere qualcosa di più del semplicemente arrapare quelli che... Cioè, poi ovviamente Salla dirà, no, ma Bruce Willis, ma onestamente io ricordo pochissimi film in cui Bruce Willis fa una scena di sesso. Anzi, forse no, uno solo. Infatti dicevo... cioè, immaginati la scena di sesso in cui Bruce Willis lancia un... così dice? Un distributore di profilattici verso un treno, tipo un aereo in Die Hard. Una scena del tipo, no, cioè, ma... Io ho solo il quinto elemento, mi sa che l'altra volta me l'avete chiesto, di scena di sesso con Bruce Willis. Va bene, però in generale, cioè... Non viene in mente. Allora... Tipo, c'è una scena... Vi porto un esempio, giusto per cominciare, di un telefilm. Scena di Daenerys che viene stuprata. Nella prima stagione. Scusate che ha spoilerato a chi non ha ancora visto Game of Thrones, tardi. Nella prima stagione non la voleva vedere. Esatto. Nella prima stagione c'è una scena in cui Daenerys viene stuprata, c'è una scena successiva in cui lei prende il controllo, cioè non è più uno stupro, è lei che dirige il coito, mettiamola così, cioè è lei che può essere una scena banale, può essere una scena, però se le due scene vengono appunto messe in parallelo, allora la prima ha senso, cioè, capito? Ci può stare questo parallelo, questo... Non lo so, vabbè. Comunque mi sento un secondo, dico due robe. Allora, intanto, sì, appunto, come diceva Jacopo, cogliamo l'occasione di avere Luca e per fare una chiacchierata, un po' come avevamo fatto nell'episodio numero 4, mi pare. E, ovviamente abbiamo qualche esempio in mente, parleremo di roba, ci sarebbe tanto da dire, però... però boh, ognuno di noi ha altre cose da fare, quindi non è che sia documentato troppo esatto. Allora, adesso magari mentre gli altri pensano a come continuare, vi sparo un pippone all'inizio e, mi piace. Allora, io non ho studiato tanto per questo episodio, però da quello che ho capito leggendo un paio di articoli, il sesso nei film, cosa che tra l'altro non mi ero mai domandato se ci fosse un modo, un qualcosa, È una roba abbastanza complicata, nel senso che intanto deve essere scritto nel contratto che l'attore può o non può fare alcune cose. E poi le scene in cui si fa davvero sesso in un film sono veramente poche e vengono messe in una categoria che si chiama tipo Unsimulated Sex. Conta parecchi film, ma in realtà onestamente sono quasi tutti sconosciuti. Forse il più famoso è Nymphomaniac. E Sì. tra l'altro leggevo un'intervista prima che diceva che in Nymphomaniac gli attori non fanno sesso, ma sono contro figure che fanno sesso e vengono tipo riprese dalla vita in giù e poi viene montato sopra l'attore. Quindi è veramente una roba complicata. E quindi dicevo, intanto ci va un contratto, cioè bisogna vedere nel contratto cosa è previsto, dopodiché bisogna creare un minimo di intimità tra gli attori che devono farlo e tra la troupe che deve girarlo. Cioè, è veramente una roba complessa e bisogna fare dei trucchi strani come quando si girano scene un po'. Quando si vogliono mettere effetti speciali, quindi si gira in modo da non coprire tutto l'attore, oppure un pezzo in su, un pezzo in giù, e in più si mettono vestiti appositi a volte, e oppure si prendono vere e proprie controfigure. Ho visto anche che esistono protesi di peni, Sì. per mostrare i peni sotto le mutande, per non mostrare il pene dell'attore. E insomma, è una roba super complicata. E tra l'altro hai citato Emilia Clarke, che è una di quelle che ha avuto un ripensamento e durante la serie ha deciso a un certo punto di far valere il suo contratto e dire che non avrebbe mai più fatto scene di nudo. E quindi hai scelto un po' un caso strano, e tra l'altro lei che è diventata famosa proprio facendo scene di nudo. E basta. Insomma, quello che volevo dire in questo pippone iniziale è che appunto la scena di sesso è una roba complicata. E quindi la scelta di fare o no una scena di sesso, perché alla fine nel girare un film si può decidere di fare qualsiasi cosa, si può anche decidere di lasciare intendere certe cose, di non dire, ma insomma Esatto. dire tra le righe alcune cose. Quindi in realtà la scelta di fare una scena di sesso non è che abbia così tante applicazioni, almeno a mio avviso. Quindi può essere sia per interessare un po' il film, per fare un po' di pubblicità, ma anche per, diciamo, esplicitare una roba. Quindi non so se la scena di sesso sia una roba che aiuta a vendere o no un film, nel senso che se non è girata ad hoc rischia poi che il film venga proibito a minori di o cose di. Quindi è una roba un po' complicata. Cioè può avere un Certo, sì. senso per spiegare qualcosa o per mostrare per mandare un messaggio per cui, per esempio, i personaggi hanno concluso, oppure per dire sì, appunto, per sottolineare qualcosa, ma è una scelta che non è così scontata. E basta. No, certo. Beh, ma il pippone era interessante comunque. No, infatti era un lato più tecnico effettivamente questo che artistico. No, cioè, questo è bellissimo. Luca, tu cosa ne pensi? Allora, beh, avete iniziato però subito con delle cose super serie, super già evoluti. Hai Io ragione, volevo no. iniziare con la parte super burina all'inizio, Bucio vabbè, quindi de culo, riprendiamo. vai. Il mio pippone all'inizio è sempre triste. No, diciamo, a prescindere, diciamo, dalla parte tecnica, io sono appunto, sono, come si intuiva dalla frase un po' gesuita, sono un po' più per Politano. il puritano, esatto, e io sono un po' così, diciamo, diciamo, sul lasciare intendere e fare così, diciamo, e in generale devo dire anche un po' in senso esteso, non solo, anche sul forzare per, in un film delle relazioni magari sentimentali tra i personaggi solo per fare intrecci così, così è una cosa che non trovo, diciamo, cioè che a volte mi infastidisce. Avete presente quando nel film a un certo punto tutti si accoppiano con tutti, in senso hanno un partner? No, puoi dirlo, e... puoi dirlo, puoi dire quello che hai detto a me. Cioè, io quando vedo un pene e una vagina, cioè mi vedo vomitare. No, un pene e una vagina, questa, è difficile questa... Sì, soprattutto sulla stessa persona, no? No, mi dissocio da quello che ha detto Jacopo. Mi dissocio. Sono assolutamente d'accordo. Sì, col fatto delle relazioni forzate. Cioè, l'hashtag di questa, diciamo, puntata è mi dissocio. Sì, esatto, questo... tutta la puntata. Questo forse il titolo dovrebbe essere, sì. Un lungo e... No, il titolo invece è devo clickbait, dire... infatti mi scuso per il titolo che sarà clickbait. esatto. Una volta che si parla di sesso posso usare un titolo. È vero, è vero. No, e invece devo dare, dicendo l'altro, l'altra faccia della medaglia, in quelli in cui Game of Thrones, in cui ce n'è troppo, in cui è fatto apposta, cioè mi va bene, perché non è, cioè diciamo, è, usarlo a dismisura è parte del telefilm, secondo me. Quindi lì mi dà un po' meno fastidio. Sembra strana come cosa, però non lo so. No, no, in questo podcast questa è la norma, cioè... No, beh, questo film fa schifo, è bellissimo! Madonna, mi hanno rimproverato anche ieri, no, ieri d'altro. E Sal, il tuo podcast è brutto, perché tutte le volte dici che il film è bello e poi dici che il film è brutto. E... perché sono sottigliezze, come una scena di sesso. Sì, riporto il podcast è come il sesso. Che analogia, proprio. Quindi, Luca, se vedi una tetta in giro, va bene. Ma se vedi... No, se ne vede tre. Ok. Ma se vedi due che invece fanno... Sempre dispari, non essere, perché sennò... Se invece vedi due che fanno l'amore, non ti piace. Bravo. Ok. Solo sesso, niente amore, basta con queste relazioni. Mi piace, si sta evolvendo sempre in peggio la puntata. Questo è ottimo, sì. Ma secondo voi Vision e Scarlet Witch come hanno fatto sesso? Cioè, ha scambiato dei dati lui? Che ha fatto? Cioè... Chi ha detto che hanno fatto sesso? È una cosa implicata, una cosa sottintesa, come piace a te, Luca Oddis. Ah, ok. Mi piace talmente tanto che non me ne sono accorto, peccato. Peccato. Ma senti... Perché allora, lui non ha... Ah no, scusate, stavo già cambiando discorso. Vai, vai, no, Salla, poi sei libero, perché tanto noi stiamo scendendo nella follia. No, dicevo, ci sono... Allora, ultimamente... Allora, noi parliamo... Adesso parliamo di sesso nei film e comunque nella cinematografia, nel grande schermo. Secondo me, da quello che vedo, si sta un po' abusando della cosa. Adesso non è che voglio fare il moralista, eccetera. Insomma, due tette mi fanno sempre piacere. Nelle serie TV... diciamo sì. Che c'è un emittente in particolare che tende a abusare della cosa. E... Chi è? Salla, chi è? Diccelo. Radio Maria. Cioè, adesso, tutto lasciando... il Gesù, oh mio Dio, riposta! Sì. Lasciando stare serie TV tipo Sense8 che sembrano abbastanza imbarazzanti. E da quel punto di vista, bellissimo. Ah, cavolo, è vero. È praticamente un porno. E, è vero. Le serie TV HBO hanno un po' tutte come elemento filo conduttore vedere un nudo a episodio. Allora, su Westworld un po' si sono salvati, perché alla fine il fatto che comunque non sono esseri umani e sono nudi in un lettino può essere una giustificazione alla cosa. No, ma su Westworld è fatto benissimo per questo, cioè, vabbè, scusate. Vabbè, però, insomma, sembra un po'... Vabbè, no, ci sta, per l'amor di Dio, è un po' crudo, diciamo. Esatto, è desessualizzato, è questa la figata, insomma. Su Game of Thrones, invece, magari è un mio punto di vista, le scene sono calate, cioè nelle ultime stagioni ci sono molto meno riferimenti sessuali. rispetto alle prime. Sì, io non so da cosa deriva questo, però sembra quasi che sia un'esigenza di trama, cosa che in realtà potrebbe essere assurda per Hitchcock. Ma cosa vuoi esigere tu? Qualcosa è andato storto. Ma sembra un po' strano, un po' assurdo, non lo so. E basta. No, allora, ritornando invece ai film, a volte, secondo me, sono girate anche molto bene. Per esempio, nelle commedie, di solito le scene di sesso sono... sono scene girate bene che hanno un significato nella trama. Per esempio, una commedia, lui e lei si mettono insieme, lui e lui si mettono insieme, lei e lei si mettono insieme. No, le ultime due non succedono mai, ma mi dissocio. Come ti dice hashtag. Ma insomma, ci può anche stare. E altre volte invece, secondo me, può essere carina la scena di sesso che ha un significato un po' più da commedia a commedia, tipo comico, cioè ti fa un po' sorridere. Per esempio, appunto, prima mi è venuto in mente Il Quinto Elemento, ma anche tutte le scene di che non sono scene di sesso reali, ma sono solo tra le righe. Tutti gli 007 del mondo hanno una scena, sì, in cui si fa capire che lui se la sta bombando, ma non si vede mai un nudo, non si vede mai un qualcosa. Ecco, secondo me il potere, la potenza del messaggio in questo caso è molto maggiore rispetto a un Game of Thrones qualsiasi. Possibile, sì, però magari è un mio parere. E, ecco, io rimango un po' stupito, cioè non riesco a capire come fa ad essere una roba pubblicitaria, cioè come fai a farti pubblicità dicendo c'è delle scene, cioè chi è una persona che guarderebbe un film per vedere scene di sesso? Cioè io mi ricordo quando ero piccolo che c'era, non mi ricordo come cavolo si chiama, quella lì della tipo ninfomane. Tipo ninfomane. Della tipa ninfomane. Tipo... Ah, è che quando facevano il superiore è uscito che era... non mi ricordo. Ninfomania? No. No, aspetta, che intendi? Era su una tipa che era... Ah, sì, Melissa P. Bravo. Esatto. Allora, ecco, io adesso sarò vecchio. Però quando ero piccolo c'erano questi film qua che... E mi ricordo che, insomma, la gente voleva andarli a vedere soprattutto perché c'era la tizia ninfomane e non per il messaggio che veniva detto nel film. Però nel 2019 mi sembra, con tutta la pornografia che ci viene sparata in faccia tutto il giorno, mi sembra abbastanza assurdo farsi pubblicità su 50 sfumature di grigio. Madonna. Non lo so, poi magari io sono il target sbagliato di quei film, cioè sicuramente, però ecco, non capisco quale sia l'interesse a presentare un argomento di questo tipo, o meglio, se c'è un livello artistico dietro, un livello, un messaggio dietro in grosso, allora può aver senso. Ma se deve essere solo facciamo vedere perché lì è lui che è malato di sesso e si fa lei, oh, ecco, Cristo, allora Dio. mi sembra un po' beh, in quel caso mi sembra sia proprio il centro del film, in quel caso no, esatto, esattamente, mi sembra un po' anacronistico. Vendevano, invece di vendere t-shirt, vendevano direttamente le corde fuori, le cose per legare la gente, le manette. No, però se vogliamo essere seri, cioè in realtà voglio un po' difendere magari film che hanno un contenuto erotico, non nel senso di esplicito, cioè che hanno comunque una certa sensualità, che hanno una certa... Però è come dici tu, cioè è molto più potente quella sottintesa, quella, capito, vista non vista. C'è questo film che in realtà è un po' una merda, dove c'è quella di Twilight, come si chiama quella? Vabbè, non mi ricordo. Kristen Bell, boh, non mi ricordo. Quella di Twilight. La non ho visto Twilight, che... non ti posso aiutare. Vabbè, c'è questa qui che praticamente fa la tizia che si prova e compra i vestiti per una straricona. E poi gli guarda la casa. Ma non c'ho presente. Un attimo che magari cerco la nome della tizia. Kristen Stewart. Kristen Stewart. E adesso se vado lì a vedere Kristen Stewart, il suo profilo su Wikipedia. Personal ritrovo... Shopper. Bravissimo. Personal Shopper. Sto film dove c'è questa qui che tutto quello che devo fa... Devo fare tutto il suo lavoro quando l'hai letto. Esatto. Vabbè, ci potrebbe stare. Però lei, cioè, è il suo lavoro. Questa qui fa la personal shopper di una celebrità, cioè gli compra i vestiti e glieli porta a casa, sta a casa, gli controlla la casa, però a volte si riprova, e le scene in cui lei si riprova sono sensuali, ma non sono, capito, fatte apposta per eccitare, sono volgari, cioè sono proprio per come sono girate, per come... E hanno anche un senso all'interno del film, che però vabbè, non vi dico che se non avete visto, è un film tipo thriller o horror, quindi non guardate. Tipo Autopsy. Sì. Anche... Tipo Autopsy. Però, cioè, secondo me ha un valore, una scena sensuale, se è fatta, come dici tu, con una certa... con un certo stile, una certa... Cioè, a volte i film sono solo forma, cioè sono principalmente forma. Ah, mettiamola così. Anche secondo me può avere senso, per esempio, un film, una serie TV che hanno visto tutti, in Westworld, vedere gli omini nudi in giro, ma non ha molto senso vedere Daenerys e Jon Snow che scopano. Esatto. Sono abbastanza d'accordo. Sì, esatto, come dicevo. Cioè, ha senso, secondo me, quello che dicevi tu del sottinteso con magari un James Bond o, sì, o sì, ad esempio, sì. Quello. Beh, l'HBO ci fa comodo in questa puntata, perché diciamo è quella più commerciale, che vende più sesso al momento in televisione. Vero. Se ancora si può dire televisione. E ci sono anche delle scene di sesso stupide, ridicole, e mi veniva in mente l'altro giorno, mentre parlavamo di sta puntata, quella di Mr. e Mrs. Smith, in cui si menano di brutto. Ah, sì. Però anche quella lì, per esempio, non è una vera scena di sesso, perché comunque loro viene sottinteso che scopano, ma... vengono fatti vedere solo i preliminari, tra virgolette, in cui si menano. Sì, fa vedere la loro relazione, come si eccitano, come... Esatto. Quindi in realtà è un esempio che si sa fare una sega che volevo portare, però è comunque un'altra cosa. Dai Luca, dici qualcosa tu. Invece che grattare i tavoli. Come grattare i tavoli? Non so che cazzo stai facendo. Ma sei l'episodio sul sesso? Esatto, giustamente. No, non stavo grattando. Chissà che stavo grattando. Boh, stavo fermo. E... Oddio, boh, che aggiungere? Io quella cosa prima ho detto... Hai degli appunti? No, mentre parlavate mi teniamo qualcosa. Tra l'altro però... la cosa prima che dicevo sulle controfigure fa ridere, perché mi viene sempre in mente... Non so se è una serie TV che forse non ho visto solo io, e si chiama Death Valley. Oddio, che bella quella serie! C'è un episodio in cui vanno nel set di un film porno e parlano dell'inseritore. E l'inseritore di fatto è quello che è la controfigura. Sto puntata sarà esplicita, ovviamente. È quella controfigura che interviene quando l'attore porno è stanco, tra virgolette. È quello che cambia il pene, praticamente. Bel cambio, ok. E mi fa molto ridere, perché in effetti le scene di sesso invece di Nymphomaniac o di altri film sono un po' così, cioè arriva la controfigura che fa l'atto invece che l'attore. È molto bello. Verissimo. Ah sì, c'è una scena C'è una scena di sesso che mi ha messo veramente tantissimo a disagio. Sai quelle cose che tipo, dai, se le guardi insieme a qualcuno ti vergogni? Ti prego. Oddio, per favore. Adesso che l'hai, per favore. Adesso che l'hai detto, ha una componente razzista. No, vabbè, ma io questi due episodi mi sono rovinato. Comunque, adesso ormai lo devo dire, giustamente, vero? Eh sì, certo. Ok, mi ha imbarazzato tantissimo. Non so perché non vorrei più vedere quella scena nella mia vita. In Jessica Jones, quando lei e Luke Cage fanno sesso. Ma perché lui è nero o perché è brutta cosa? Esatto, lo so, certo. No, con la cosa, capito, che il letto che sbatte così, cioè, non lo so. Per me è cringe quella cosa, non lo so, però... Mi dissocio. Ma come, vabbè, mi dissocio, Iaco? Ma quella è una cosa che sala del... Vabbè, non ti piace vedere un pelato che scopa? Vabbè, dai, Luca. No, è che Luca, come si dice, è un fan, cioè, si sente in colpa per i muratori che hanno costruito quei muri, si sente in colpa per il tizio che ha costruito il letto, l'artigiano. Ah, esatto, Luca vorrebbe fare uguale, ma non è abbastanza grosso, quindi... No, guarda, quella scena che imbarazzo. Quella scena sembrava la mia super ex ragazza, cioè, avete presente? È vero. Però quel film era una commedia, Jessica Jones in teoria era un dramma. Cioè, è vero, cazzo, è uguale. È un po' quello che mi ha creato il fatto del, capito, che era tutta una cosa triste, che a quello era morta la moglie, tipo, oh, spoiler. Però, diciamo... Però, capito, è vero, boh, guarda, è pure. Mamma mia. E, raga, non so se avete mai visto il capostipite di tutte le serie TV sul sesso, che è True Blood. Io ho visto un episodio. True Blood è il capostipite di tutto il sesso nelle serie TV. Ma quindi mi stai dicendo che i vampiri possono essere anche intesi come una metafora sulla sensualità e il demonio? Questo non l'avevo mai pensato. Penso sia la prima persona che lo dice dai tempi del 1800. No, cioè... mi ricordavo qualcosa, ma in quel telefilm c'è quella che fa Rogue, no? C'è quella di X-Men? Sì. Rogue. Non è Anna Paquin? È Anna Paquin, bravo. E, tra l'altro, quel telefilm lì ha una scena di sesso omosessuale e credo sia una delle prime scene che io abbia mai visto in televisione di due uomini che si baciano. Ottimo. E... No, vabbè, quello ci sta. Cioè, una scena di sesso omosessuale, lesbica o gay o tutto quello che ti pare, diciamo che comunque sia valgono le stesse regole che valgono per tutte le altre scene. Però ha più una valenza sociale in questo momento storico, secondo me. Ancora. Beh, in quel telefilm non l'aveva, però, perché erano due frustrati che limonavano, era un fanservice per tutte le ragazzine che lo guardavano. Cazzo, questo è vero pure. No, però tipo in American Gods ci stanno quei due... Spoiler! Sì, American Gods, sì. Quello anche nel libro ci sta ed è importante, cioè anche per... diciamo la controcultura islamica, mettiamola così. Ecco, per dire, American Gods ha un paio di scene di sesso che non mi sono piaciute. Anche a me, neanche a me. Per esempio, quella della morte lì, della seconda stagione, della tizia morta con il leprecauno, mi è sembrata un po' una cacata. Io l'ho zumbata quasi tutta. Esatto, cioè io poi vado avanti veloce spesso e le seguo. Devo dire che ultimamente sto andando avanti veloce con molte cose. No, beh, allora una cosa è positiva, nel senso che molte cose che una volta non... erano proibite, adesso sono un po' sdoganate, quindi boh, vabbè, l'elemento culturale è un po' quello, cioè di fatto adesso se vedi una tetta non dici oh mio Dio una tetta, mentre se mio padre avesse visto una tetta e in televisione avrebbe detto questo sì che è una cosa strana. No. Non nel senso la tetta, nel senso una tetta in televisione. Cos'è questo? Dove l'hai visto? Mi scusami babbo se stai ascoltando. Dobbiamo troppo rigirare la scena con tu con una parrucca grigia e gli occhiali di tuo padre e... Esatto, come contenuto bonus, mi piace. Esatto. Ecco, l'altra cosa è, cioè non so se si può andare oltre a questo, nel senso che adesso c'è davvero di tutto. Adesso tipo in Millennium fa parte della trama, però ci sono scene abbastanza spinte. Non so Millennium se può... dici uomini che odiano le donne, come sì, il remake, perché è originale vecchio e non credo ci siano okay. Scene di... Non me lo ricordo sinceramente. Vabbè, nel libro c'è un po' di tutto, però nel... cioè ci sono scene di violenza molto forti. E ecco, se la scena è fatta così, capisco anche che sia molto, debba essere molto complicata da girare. E se la scena è fatta così e dà una valenza nella trama, allora può aver senso. Ecco, la mia domanda è se si può spingere oltre. Non credo, perché dopo diventa un porno. No, però diciamo che alcuni tabù culturali ancora ci stanno, cioè non è competente sdoganata per tutte le sessualità, per tutte le come posso dire, cioè ci sono cose che ancora non sono state stabuate, mettiamole così, sono state sdoganate. Antabuate. Metto un attimo. Dai Luca, dimmi tu ancora qualcosa. Visto che no, io volevo farti, se abbiamo ancora tempo, volevo chiederti, volevo riprendere un discorso che hai preso tu. Una serie TV invece come appunto Sense8, in cui è fatto volontariamente molto più del dovuto per scopo sociale, come la prendi? Dici ok, va bene, o comunque è un po' eccessivo? A te come è sembrato? Allora, io Sense8 ho visto 2 episodi, ho skippato tutte le scene di sesso, okay. Di sesso, e poi non ho più visto. Ma no, dai! Ma sì, perché no. È una rottura di cazzi, cioè sono solo loro che ficcano. Bello, eh? Però a sto punto mi guardo un porno, cioè veramente. Nel senso che perde anche il punto della trama. Cioè vedi solo questi che vogliono scopare. Poi non so, magari il terzo episodio era tutto un twist. No, allora, ci sono alcuni episodi in cui non ha senso, ma ce ne sono un paio dove diciamo che il senso di Sense8, il senso di Sense8 è quello, cioè diciamo che si manifesta anche in quello, mettiamola così, quello che vogliono sì, ho capito, ma... esprimere. Diventa un film porno. Ora, io non ho mai visto sì, diventa un film porno in vita mia, però da quello che so le trame del film porno sono così. No, allora, di solito sono un po' meno elaborate, per fortuna. No, però la cosa bella è che in queste 2-3 scene in cui, se volete ve lo spoilero, però succede... Vabbè. Sono delle orge, mettiamola così, tutti i personaggi che sono appunto parte di questo unico mega organismo di multi persone, si scoprono fra di loro tutti insieme, e non è solamente un'orgia per dire oh che figo un'orgia, anche perché è un'orgia, cioè nel senso se non partecipi che gusto c'è? Se non certo. Solo per il potere visivo. Ok, non mi dissocio. Mi dissocio. Sarà il trailer questo. Il trailer dell'episodio sarà il titolo. Estraggo questo audio. No, però davvero, cioè, ci sono loro che imparano, cioè, questo amore fra di loro che viene spesso anche in questo modo, e ci sono delle, diciamo, delle barriere che cadono, sia culturali che, diciamo, dei pregiudizi, anche che avevano tra di loro i personaggi. Sì, ho capito. Non è che improvvisamente tutti diventano omosessuali, tutti diventano pansessuali, però cadono molti dei preconcetti che avevano e percepisci che... Sì, ma per capire diciamo, queste per loro... cose devi guardare attraverso le 200 scene di sesso che ci sono. Sì, effettivamente ce ne sono un po' troppe prima di queste. Cioè, di queste... Praticamente io ho guardato i primi due episodi e la trama poteva anche essere: ehi, è arrivata la pizza, tanta, e parte la musichetta, e si entra nudo. Sì, cioè. No, questo è verissimo. Però è bello perché alla fine diventano proprio una famiglia che è proprio unità in tutto. Che suona male detto così, però sì, è sì. Molto bello. È una fantasia molto bella, sì. Diciamo così. Che schifo. E ma quindi voi l'avete visto prima? Tutti? Sì. Io no, io... Boh, mi manca o una stagione o qualcosa, non lo so. Sì, l'ultima stagione. Cioè, alla fine diventa proprio un fantasy, cioè proprio le relazioni diventano impossibili, però è bello perché dici, cazzo, sono una famiglia, sono insieme, spaccano culi e niente. Letteralmente. Letteralmente. mi dissocio. Me la sono cercata. Vabbè. Mi interessava perché io ero un po' combattuto su questa cosa, mi interessava sapere cosa ne pensaste. Che è noioso, è una palla allucinante. Ma perché tu cosa ne pensi invece adesso, Luca, al momento? Ehi, sono io quello che fai domande, no scherzo, va bene. No, diciamo a me, capito, sono rimasto un po' combattuto perché vorrei dire quello che dice Sala, però da un certo punto di vista loro hanno, come dici tu, le scene sono un po' organizzate in cui loro... questa comunione che hanno questi otto personaggi pseudo telepatica, vabbè, diciamo così, sono si vede come, capito, entrano in questo rapporto. Ecco, era tutto a dire quello che avete detto, è tipo tutto un retro. Ha un sottotesto fallico, morte, diciamo. No, perché loro nei film hanno, anche nel film che hanno fatto, quello lunghissimo, Cloud Atlas, hanno un po' questa cosa di comunione tra tutti gli esseri umani come tema ricorrente. Sì, sì, ma Cloud Atlas è un marone, ma almeno non ci sono scene di loro che scopano. Diciamo, lì è una comunione in un senso diverso, capito? Lì è prolungata nel tempo, invece nella serie TV è tra tipo otto persone dislocate. Cloud Atlas a me è piaciuto, anche se è veramente un marone. Però ecco, di là invece veramente, cioè, sembrava doveva andare avanti veloce per non guardare due ore di porno. Donna Sala, come sei pudico, come sei... Cioè... Ah no, per l'amor di Dio, un porno lo guardo volentieri, ma se voglio guardare un porno, se voglio guardare una serie TV. Esatto. Ci sono degli orari, capito, da rispettare. È come dire, vado a pranzo e ti servono tipo prima il gelato e poi la frittura di pesce. E poi un dildo in un cappuccino. Esatto. Cioè, è come dire buongiorno e ti versano tipo il superalcolico nel bicchiere del caffè latte. Cazzo, buono! Cioè, mi sono appena svegliato, mi piace il superalcolico, ma magari me lo bevo dopo. Vabbè, mi mangio troppo adesso Sala che gira il caffè con un dildo, cioè, che poi a Copenaghen ci sta troppo come caffè hipster, cioè lo farebbero? Lo farebbero tantissimo. No, non so. Beh, una buona immagine per... Cioè... Quello che mi dico, poi per amor di Dio, io sono una delle persone meno flessibili della Terra, quindi se uno mi dice vieni a vedere con me un film d'azione e poi vedo che il film d'azione magari è un film drammatico di due tizi che hanno il cancro, io non riesco a guardarlo, cioè anche se il film magari è bellissimo, anche se dubito perché date le premesse, non riesco a guardarlo. E qui è uguale, cioè tu firmi un contratto sì, all'inizio che ti dice io sto guardando esatto. Questo film, esatto. non cambiate film per favore, esatto, okay. Non cambiate genere. è esattamente così. Quindi a te. Per cui se io dico mi voglio vedere una bella serie TV e mi scarico questo che è un porno, Poi vado a poi dico, mi vado a vedere un bel porno e mi guardo, boh, cazzo ne so, e Good Omens, cioè, per dire. Ah, Good Omens, è vero. Famoso porno. No, beh, sì, io tipo questo ragionamento, ad esempio, per le serie TV lo faccio abbastanza. Cioè, diciamo, prima di vedere qualcosa, in base a come sto, cosa mi vai a vedere, ho magari un target. Cioè, questo ha senso come cosa, secondo me. No, questo sicuramente non è scema come cosa, diciamo. Tra l'altro io adesso vorrei farvi, perché mi è venuta in mente una roba che un po' mi vergogno, però vabbè, sono fatto così, ormai in questo podcast ho detto tutto, ho detto che piango guardando i film, i cartoni della Disney, quindi posso dire oddio, ancora non ci sono arrivato, sappiamo tutto. Allora, io ci sono alcune serie TV, allora io viaggio molto e spesso metto le serie TV sul mio tablet e poi me le guardo in viaggio, tipo in treno, in aereo, eccetera. Ci sono alcune serie TV che non posso guardarmi perché ho paura che mi spuntino fuori sei tette e ho paura che tutti i vicini, se c'è tipo la madre con bambino, eccetera, e la vecchia, non mi guardino male, ma ci faccia proprio la figura dello stronzo. Poi magari, cioè, capisco che sia tutto un viaggio mentale mio, però ecco, per esempio, guardare Game of Thrones in treno è sempre un rischio. Salve, sì, capisco benissimo, e ogni volta, prima di guardare un film intero, penso, vabbè, questo film ha le tette, no, e 10 minuti dopo... Che poi lì per lì non so cosa fare, cioè o abbasso la luminosità bassissima, cioè veramente, sono super in imbarazzo. Ma non, no, perché tipo io la gente pensa che, ma guarda, quello guarda e scende. No, perché magari c'è il bambino dietro con la madre e dopo mi si incazza perché dice, guarda quello che fa vedere. No, Salla, ma sai cosa è successo? Io ho visto Stress da Vampiro, Vampire Kiss, quello di Nicolas Cage. Sì, l'attore più citato in questo podcast. Esatto, l'attore più citato. Sull'aereo. E accanto a me avevo babbo che dormiva e mamma che mi chiedeva che film era, e c'era una scena dove lui faceva sesso. Vabbè, ma finché sono i tuoi, vabbè, può essere un minimo imbarazzante. Ma alla fine... È una combinazione, capito, di cose, sia sull'aereo che sui film. A me, esatto, a me dà fastidio lo sconosciuto che ti guarda, oppure pensa se c'è tipo il tizio dietro infiammato, tipo che comincia a guardare il tuo porno, cioè mi dà un po' fastidio come idea. Come il tuo porno? Cioè, nel senso, comincio a guardare il film che guardo io perché sto guardando, vedo due tette. Ah, non poi so. Si mette le mani nei pantaloni a cercare il... No, quello non credo, però mi dà un po' fastidio come idea. Poi è tutto un viaggio mio, ovviamente, sono strano e la gente si dissocia. Ah, no, ok, pensavo dicessi qualcosa di più compromettente, questo va bene. No, ma... Questo è umano. È vero, però commettente per Salla perché lo umanizza, questo non va bene. Ah, vabbè, non so se vi è mai successo. Cioè, per esempio, io ero preoccupatissimo, sì, sì, per The Punisher, anche se ero praticamente sicuro che non ci fossero scene di nudi. E... Game of Thrones non mi sono mai azzardato a vederlo. Westworld mai nella vita. No, boh, sono problemi, cazzo. O me li guardo nel cellulare, tipo piccolino. Una tettina. Vabbè, dai, l'episodio è cominciato su sesso ed è finito su cosa ti imbarazza in viaggio. Allora, vogliamo chiudere così o... Sì, se Luca non ha nient'altro, altri temi da proporre, visto che la puntata è in suo onore, visto che lui è il massimo esperto di questo argomento. No, non ho altri temi da proporre, non rispondo neanche, Salla, mi lascio travolgere perché questa puntata ho dato il peggio di me, sicuramente, cioè il meglio. Ma non è vero. Va bene, allora... Vai. Allora, la rubrica di questa settimana è una scommessa. Il 5 luglio, in teoria non so quando uscirà in Italia, però il 5 luglio in America, credo, esce Spider-Man Far From Home. Ora, nel trailer c'è Mysterio. Mysterio è un cattivo, ma nel trailer è un buono. Sappiamo tutti che lo dirà. che minuto del film Mysterio tradirà Spider-Man? Ora, premessa, se non dovesse tradirlo, cosa impossibile, impossibile, il minuto più vicino sarà il minuto 135, che è il minuto massimo del film. Perché aspetta, però, una roba, cioè, immagino che lui poi lo tradisca dall'inizio del film, quando lui se ne accorge. Esatto, cioè, quando è che cioè, vediamo... quando lo palesa. Esatto, quando lo palesa, quando è che Peter Parker si rende conto... Oddio, Peter Parker è Spider-Man, oddio. quando è che Spider-Man... quando è che Spider-Man si rende conto che è stato tradito da Mysterio? Cominciamo da Luca. 135, direi 104. Ok, Salla. 72. Cazzo! 78 io invece. Ah, cane! Cane! Ah, ok, quindi se è prima di 72 vince Salla, e altrimenti se è dopo 104 vince Luca, altrimenti dobbiamo vedere, dobbiamo fare dei conti più precisi, insomma. Super complicati che nessuno di voi del pubblico saprà fare perché saranno sbagliati, ma vabbè. Tutti sbagliati, esatto. Ma scusa, 135 minuti è la durata totale, compresi i titoli di coda? Sì, credo di sì. Vabbè, pace, io ho dato quella. Ok. Puoi cambiare, puoi cambiare. Luca, se vuoi cambiare, puoi cambiare. Luca? No, va bene, 104, no, scusatemi. Va bene, ok. Se vuoi chiudere, visto che questo episodio era in tuo onore... salutare ancora i nostri, quindi niente, anche questa sera vi ringraziamo per non questa sera, dipende a che ora lo state ascoltando, vi ringraziamo per essere stati con noi e quindi io, Jacopo e Salla vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Sì, ciao. Ciao, porconi!